Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. Allora, il nostro sito radio24.it. Lì potete dialogare anche con i giornalisti che hanno un blog. Voi lo sapete, lo si chiama Guardi o Ladri. Lo trovate o su Radio 24 oppure sull'home page del Sole 24 Ore. Potete scaricare le puntate di tutte le trasmissioni, ovviamente. Seconda informazione di servizio, la nostra mail. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, mail che è stata raggiunta da una radioascoltatrice di Sassari, Maria Franca Ara, che ha fatto presente una cosa davvero molto molto interessante. Il tentativo di truffa, ma lo dico, dovremmo verificarlo, che l'ha vista coinvolta. Dietro questo tentativo di truffa, ma poi sentiremo anche con Vodafone se tale la intendono anche loro, c'è il tentativo, diciamo così, di far passare da un operatore telefonico ad un altro, in questo caso la dottoressa Ara, ma probabilmente o forse anche altre persone. Allora, noi chi abbiamo chiamato ad interloquire con noi? Chi ha denunciato il caso? Vodafone, che è coinvolta, e lo scoprirete perché dietro ci sarebbe stato, come dire, il servizio Tele2, ex Tele2, di proprietà ora di Vodafone, e la Telecom. Telecom che viene chiamata in causa, vedremo, perché è l'operatore che sarebbe in difficoltà e quindi cerca di tenersi cari i clienti. Scopriremo poi subito, ora, che Telecom non c'entra. Motivo per il quale la stessa Telecom ha declinato l'invito, mentre invece abbiamo Vodafone. Do innanzitutto il buongiorno a Maria Franca Ara di Sassari. Buongiorno Ara. Buongiorno. E do il buongiorno ad Antonio Franchino, che è responsabile servizio dei clienti di Tele2 di proprietà Vodafone. Buongiorno dottor Franchino. Buongiorno. Allora Ara, partiamo dalla sua storia, che è veramente paradossale, prego. Allora, un pomeriggio del 7 aprile ricevo questa telefonata da un signore, si presenta come un operatore Telecom di Sassari. Mi dice che Telecom appunto mi vuole premiare perché io sono un cliente affezionato, che nonostante tutte le offerte che ci sono in giro, io sono rimasta sempre a Telecom. C'è la possibilità quindi di risparmiare rispetto alla spesa effettiva che io pago ogni due mesi in bolletta. Certo. Dice, io chiedo, ma posso avere il materiale, vado su internet e me lo guardo? Sì. Dice, no, su internet questa offerta non c'è, dice, perché è riservata a poche persone. Però dice, non si preoccupi, tanto noi, dice, per telefono non possiamo fare nessun contratto, gli spediamo tutto il materiale a casa, lei con calma se lo guarda e poi ce lo rispedisce firmato nel caso sia d'accordo, ecco. Dice, però per fare questo ci serve il numero segreto della bolletta. Sì. Insomma, un numero segreto, un codice segreto Telecom che è nella fattura che arriva, certo. Va bene, prendo questo codice segreto della bolletta e il signore dall'altra parte del telefono dice, adesso lei ascolti un po', io gli faccio la lettura del contratto, lei risponda sì senza interrompermi. Quindi va avanti nella lettura, un primo paragrafo sì, sottolineo che non si capiva granché perché leggeva a una velocità supersonica. Solo quando è arrivato a questa tariffa Tele2, parla di Tele2, io pensavo fosse una nuova tariffa di Telecom. Quindi un po' di sospetto mi è venuto, certo. Ma siamo andati avanti. E ci siamo bloccati solamente quando sentiamo lei rinuncia ad altro gestore. A quel punto ovviamente si è alzata l'antenna, già prima qualche sospetto l'aveva avuto, perché obiettivamente se chiamava Telecom non si poteva passare ad altro gestore. Certo. Benissimo. Allora, la cosa è molto chiara, ricorderete anche molta pubblicità su questa Tele2 che la faceva anche molto, ora non so se continua a fare, lo chiederemo al dottor Franchino. Tant'è che questo è il caso denunciato. Ovviamente la dottoressa Ara, mi corregga se sbaglio, voi a quel punto vi siete bloccati, giusto? Siamo bloccati, sì. Benissimo. Abbiamo chiesto, ma quale gestore? Quale altro gestore? Se noi siamo già Telecom, Dice no, sono altri probabili gestori che possono contattarvi e farvi offerte e riprendiamo tutto da capo. Questo per due volte, questo sì. Ci siamo resi conto che stavano registrando un contratto e quindi abbiamo certo. Interrotto. Assolutamente, perché lei oltretutto aveva paura che questo contratto poi, per quanto verbalizzato oralmente, poi magari bisognerebbe chiedere a un esperto, io non so darvi una risposta, ma comunque la signora Ara aveva paura che questo contratto poi avesse anche forza legislativa, di legge, non credo che lo avesse, ma comunque uno che si sente chiamare al telefono il sospetto comunque può averlo. Allora, chiedo a Franchino, a suo giudizio, che cosa è successo e poi lei la definirebbe un tentativo di truffa, una cosa del genere? Io in primis mi scuso a nome dell'azienda con la signora per la vicenda e vi ringrazio per la segnalazione, questo perché valutiamo sempre con estrema attenzione tutte le comunicazioni che riceviamo e questo per individuare possibili affinamenti dei processi. In questo caso in particolare, anche se lo definisco davvero molto spiacevole, dimostra l'efficienza delle procedure di vendita che Teledus si è data. La vendita in effetti non c'è stata, questo perché la signora ha capito che il venditore non stava rappresentando la realtà in modo corretto. No, mi scusi, ma il venditore si era presentato come Telecom, non come Vodafone, quindi voi l'avete scoperto perché noi vi abbiamo mandato la lettera, altrimenti come lo scoprivate? Noi lo scoprivamo perché noi abbiamo dei controlli serrati di qualità, infatti la stessa registrazione non ha superato il controllo della correttezza formale e sostanziale della registrazione e questo controllo è un controllo a cui sono sottoposte tutte le vendite telefoniche. Per capirci, il controllo consiste nella verifica di aderenza al testo, se le parole sono dette in maniera chiara e comprensibile, se le risposte sono chiare. Quindi tutti questi concetti nel momento... No, mi scusi Franchino, ma se la dottoressa Ara avesse risposto compiutamente a tutte le domande, questo filtro l'avrebbe superato, l'avrebbe passato e il contratto sarebbe stato a quel punto potenzialmente valido. Assolutamente no, perché il giorno successivo noi effettuiamo ecco. Momento in cui superano okay. I controlli formali e sostanziali, cioè il giorno successivo alla vendita i clienti sono contattati da un'azienda diversa da quella che ha effettuato la vendita stessa. Ho capito, quindi c'è un primo momento che è quello della vendita e poi un secondo momento che è un controllo successivo per vedere se effettivamente quella vendita era corretta. Però mi spieghi una cosa, Franchino, quindi qui, se non capisco male, c'è stato qualcuno che comunque è nella galassia Vodafone, sarà una società esterna, suppongo a contratto con voi o comunque con una società di servizio, che anziché dire buongiorno, siamo Tele2 Vodafone, ha detto siamo Telecom. È giusto e corretto quello che sto dicendo? Me lo ha dichiarato la signora, quindi prendo per buono quello okay. Che ha detto la signora okay. E posso assicurare che l'azienda che si è resa responsabile di questo increscioso episodio sarà punita così come previsto dal contratto. Ecco, perché voi avete poi avuto anche la possibilità di verificare, no? Che quello che è stato denunciato per lettera e poi effettivamente sia corrispondesse al vero, giusto? E più che altro abbiamo verificato dalla registrazione che c'è stato un'interruzione della registrazione stessa, quindi le dico, il contratto non è andato avanti, non è certo, stato formalizzato, certo. Quindi io lo considero una non vendita in questo assolutamente caso. Certo, assolutamente. Ecco, ma cose di questo tipo, episodi di questo tipo succedono, possono capitare, cioè se la sente di mandare anche un messaggio ai radioascoltatori nei quali lei dice, allora, se vi contatta Tele2, se vogliono proporvi Tele2, attenzione che la procedura è questa, solo ed esclusivamente questa, e attenzione perché ci sarà comunque un secondo filtro, perché anche se voi aderite poi vi ricontatteremo, è così? Assolutamente sì, e le dirò di più che i testi che vengono utilizzati dagli operatori di televendita sono blindati da noi, quindi ogni operatore che fa una vendita telefonica utilizza uno script che è uno script rigidamente blindato da noi e se non viene utilizzato questo testo noi scartiamo la vendita, quindi mi sento assolutamente tranquillo con questi due step successivi di controllo intercettare tutte quelle ok, una domanda al volo, forse lei può dare una risposta, ma un contratto di questo tipo, cioè orale, che ha superato la doppia prova, ma ha validità legale o non c'è poi bisogno di firmare un contratto di carta? La vendita si conclude con l'invio del contratto stesso al cliente e quindi poi il cliente ha, come da decreto Bersani, 10 giorni per poter poi recedere dal contratto. Ok, quindi in realtà i controlli alla fine sono 3, cioè il filtro è triplo, cioè addirittura poi il contratto cartaceo, che quello sì veramente, come dire, esattamente. Benissimo, allora io ringrazio Franchino che è responsabile del servizio clienti Teledu, ma soprattutto ringrazio la nostra radioascoltatrice di Sassari, Maria Francara, che è stata così brava e così attenta e così sveglia da segnalare una cosa del genere, di cui dovrebbero dire grazie tanto Telecom e quanto Vodafone. Vodafone l'ha fatto, Telecom invece ne prende atto, ringrazia ma non partecipa. Grazie in regia a Fabio Cantadori e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.